Benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Queste Tracce di Cinema, è giovedì, sono le 15:03 e noi iniziamo oggi un film, direi, di fuoco. Lo dico perché il fuoco è un elemento portante di questo film, è molto presente. Parliamo di Cuore Selvaggio, David Lynch, 1990. Sicuramente ha un lato magico e misterioso rispetto agli altri suoi film, e di sicuro ha una trama più comprensibile. Segue un filo logico in questo film David Lynch, che normalmente nei suoi film non segue, sono impossibili. C'è un filo logico, ma nessuno lo capisce. La storia è semplice, anche forse un po', sì, no, un po' cretina in genere degli altri film. Sì, no, io faccio veramente molta fatica a seguire. Sì. Mulholland Drive per me è stato proprio, cioè, il mistero. Ha seguito così, senza capirlo. In effetti forse è così. Comunque un film ispirato al romanzo Wild at Heart, The Story of Sailor and Luna di Barry Gifford, classe 1946, penna di assoluto talento. Tra i suoi più importanti libri pubblicati in Italia, Storie selvagge e Gente di notte, collabora tantissimo con David Lynch anche in Strade perdute. Che dire di altro? Poi ne parliamo, insomma, andiamo avanti con le notizie dopo, partiamo con la musica. E questi erano i Power Mad con il brano Slaughterhouse della colonna sonora di Cuore Selvaggio. Chi sono i Power Mad? È un'innovativa ma anche spesso dimenticata band metal. E l'abbiamo sentito. Non hanno mai raggiunto un vero e proprio successo, però i loro album sono considerati come l'emblema in assoluto del thrash della musica speed metal. E questa colonna sonora infatti inizia proprio così, è potente ed è curata da Badalamenti ed è molto caratteristica come altri film di David Lynch, e passa appunto dall'heavy metal a blues struggenti a dei classiconi come le canzoni stucchevoli di Elvis ricantate da quel coatto di Nicolas Cage ma anche dei bellissimi brani di Chris Isaak di pop, insomma, molto belli, e qualche brano di Badalamenti che andiamo poi ad ascoltare. Allora io invece vi vorrei parlare della storia. Ne ho due versioni, una breve e una lunga. Quale volete? Fai te. La lunga. La lunga, piena di dettagli, cioè lunghissima, parlo un quarto d'ora. Vi avverto. Vai, incantaci. Gli ascoltatori, siete pronti? Vabbè. Andate a fare un caffè. Semmai ti stoppiamo. Dai. Andate al bar a farvi un caffè. Sailor Ripley, in libertà vigilata, scappa con la giovanissima Lula Pace, una ragazza sbandata, sempre in preda agli incubi in seguito a uno stupro subito quando era appena adolescente. Lula è fuggita di casa per sottrarsi al disposismo dell'eccentrica madre, sgualdrina, ubriacona e dissoluta, e ora si rifugia fra le braccia di Sailor, colpita da una passione fatale. I due si propongono di raggiungere il Texas, dove Sailor conta di poter sfuggire ad ogni controllo della giustizia, ma Marietta, la madre di Lula, rifiutata da Sailor, a cui si è offerta senza reticenze, sguinzaglia alle calcagne dei due i suoi killer per recuperare la figlia ed eliminare Sailor. Giunti in una piccola città a corto di soldi e con la ragazza ormai incinta, Sailor accetta per disperazione la proposta del torbido Bobby Peru, William Defoe, di partecipare ad una rapina destinata a finire male, naturalmente. Peru viene ucciso e Sailor viene di nuovo incarcerato. Uscito di galera, trova Lula ed il figlio ad aspettarlo, ma nel tragitto di ritorno a casa Sailor ha un ripensamento ed abbandona nuovamente la sua amata, avviandosi a piedi verso la stazione. Ed è proprio durante questa camminata che viene aggredito da una gang locale, e mentre a terra gli appare la fata buona che gli suggerisce di riconciliarsi con Lula, cosa che fa subito dopo essersi ripreso e nuovamente felice cantando Elvis Presley. Esatto. È un bel pezzo blues d'atmosfera, Cool Cat Walk, ovvero la elegante camminata del gatto. È un brano di Badalamenti, che appunto ha curato la colonna sonora di Cuore Selvaggio. Andy Badala è uno degli pseudonimi di Badalamenti, è considerato uno dei compositori più cupi ed intimisti di Hollywood. Veramente? Certo, sì. Io ho sentito un po' di suoi pezzi, sono veramente angoscianti. Alcuni, sì. Accompagna bene appunto i film di David Lynch, ha fatto Velluto Blu, Twin Peaks famosissima, Mulholland Drive anche molto bella, Strade Perdute. Sì, e la sua musica, lui ama molto il jazz, ma la sua musica, come sapete, passa, spazia dal New Age all'elettronica e tanto altro. Delle varie cose che ci sono, insomma, da dire su questo film, mi ha colpito in particolare la violenza, no? Cuore Selvaggio è stato detto che è un freak show della violenza, naturalmente un anticipatore del cinema pulp. Si è detto che probabilmente senza questo film non ci sarebbero stati Natural Born Killers e neanche Pulp Fiction. Sì, sì. E una delle cose più violente del film, tra dettagli disgustosi tipo un cane che esce scodinzolando da un locale con tra le fauci una mano mozzata, vomito e sangue, ci fu una scena che fu troppo forte per tutti, Lynch compreso, così da venire rimaneggiata e alleggerita, quella della tortura e dell'assassinio del detective Johnny Farago da parte della gang di Santos con la sadicissima Juana. Da una delle protezioni test uscirono dalla sala ben 300 persone su 350. La gente non soltanto abbandonò la sala, ma si arrabbiò moltissimo. In quel caso credo di aver proprio esagerato, disse David Lynch. Inoltre, la versione cinematografica nordamericana è stata privata della scena in cui il personaggio William Defoe si spara accidentalmente in testa con un fucile mozzandosela. Il fumo dello sparo è stato aggiunto a questa scena per coprire il sangue e il movimento della testa via dal capo. Le altre versioni della pellicola non riportano questo taglio. Il DVD americano del film contiene la versione censurata della scena, invece. Baby Please Don't Go, questa è la versione dei Them. Questo è un brano famosissimo che l'hanno fatto in tantissimi. Il primo è stato Big Joe Williams nel lontano 1935. Quanti anni che c'ha sto brano, però l'hanno fatto in tanti altri, anche i Ten Years After, gli Aerosmith, Ray Charles, e anche l'italiana Caterina Caselli con una versione in italiano dal titolo Sono qui con voi. Fu anche il primo singolo pubblicato dagli SDC, e anche Edoardo Bernato ne ha fatto una versione, È uscito pazzo padrone. I Them è un gruppo musicale, invece la versione che abbiamo ascoltato è quella dei Them, che è un gruppo musicale rock dell'Irlanda del Nord. Esatto, bravo, che è conosciuto, è stata la band in cui ha debuttato Van Morrison. E un altro brano importante loro è Gloria. Di questo bel film posso raccontarvi l'origine, che è abbastanza curiosa, perché Twin Peaks ha da poco cominciato ad appassionare gli spettatori americani e David Lynch è alla ricerca di uno spunto per il suo prossimo lungometraggio, e arriva da lui l'amico Monty Montgomery, che era il cowboy di Mulholland Drive, che ha intenzione di dirigere un film ispirato appunto a un romanzo, come dicevo prima, scritto da Barry Gifford. Quel romanzo, Cuore Selvaggio, piacque moltissimo a David Lynch, che si innamorò del testo e disse a proposito di questo: nella mia mente quella storia e la violenza dell'America si fusero l'una nell'altra, generando una serie di idee, anche perché Cuore Selvaggio parla di malattia, insania, alterazione, proprio come nella vita. E ancora dice Lynch a proposito di questo suo film: è un road movie, una storia d'amore, anzi un amore trovato all'inferno, un dramma psicologico e una commedia violenta, una strana mescolanza di tutti questi elementi. E io trovo che proprio sono giuste, una giusta definizione insomma ha dato per questa pellicola. Budget di 9 milioni e mezzo di dollari, quando uscì nelle sale ebbe reazioni molto contrastanti, di certo fu rifiutato al box office, negli USA gli incassi finali si aggiravano sui 14 milioni e mezzo di dollari, una miseria insomma per quello che poi fu il film, che vinse il Festival di Cannes. Vinse la Palma d'Oro come miglior film al Festival di Cannes grazie al presidente della giuria, che in quel caso era il nostro carissimo amico Bernardo Bertolucci, che insomma salvò questa pellicola e gli fece vincere la Palma d'Oro. E a proposito di fiamme, questo era un blues veramente fiammeggiante e angosciante anche, insomma. Sì, Up bello, in Flames, bello cupo. Bello cupo, Up in Flames si chiama, cantato da Coco Taylor, cantante blues di Chicago con la voce stupenda. Ma il brano è scritto da Badalamenti e da lo stesso David Lynch. Coco Taylor nasce nel 28 e lavora per molti anni con la Chess Records, per la quale registra il pezzo più famoso, Wang Dang Doodle. Nella Chess Records, per intenderci, è la stessa di Muddy Waters, Willie Dixon, Etta James, solo per nominarne alcuni. Coco Taylor partecipa e canta nei Blues Brothers 2000. Aveva un locale molto bello che poi ha chiuso. E quel pezzo che dicevi, Wang Dang Doodle, vendette all'epoca nel 66 1 milione di copie. trouble. I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. Sempre dalla colonna sonora di Cuore Selvaggio abbiamo ascoltato Wicked Game di Chris Isaac, scritta e cantata da lui, anche la chitarra è la sua, molto bella fra l'altro, con tutti gli slide. Chris Isaac è un cantautore, showman e compositore statunitense che ha anche spesso recitato come comparsa ed ospite in molti film. È nato nel 56 da padre tedesco e madre italiana, delle zone di Genova. Infatti lui disse una volta che gli piace molto il pesto genovese, vabbè, chi se ne frega. La canzone Wicked Game è stata probabilmente il suo più grande successo internazionale, anche grazie a un videoclip. E poi dicevo prima che ha partecipato in film, e la sua musica è stata ascoltata, si può ascoltare in Eyes Wide Shut di Kubrick. Lui ha fatto piccole parti nel Piccolo Buddha di Bertolucci, anche nel Silenzio degli Innocenti compare, e addirittura nella serie Friends. got the time to wonder why she left me. It's a slow, sad Spanish song. I knew the words, but I sang them wrong. What I love is left and gone without me. Now she's gone, how the world has changed. Watching a blue sky. E stiamo sempre ascoltando la colonna sonora di Cuore Selvaggio, e questo era di nuovo Chris Isaak con il brano spagnoleggiante Blue Spanish Sky. Di solito non mettiamo lo stesso autore due volte di fila, però con Chris Isaak si poteva fare, musica molto bella. I dettagli in questo film sono, per Lynch, sono molto importanti sempre nel suo cinema, e in questo film è particolare il colore, no? che lo domina, il rosso e il giallo, e le scene d'amore sono girate come se fossero degli spot, e ci sono dei riferimenti costanti al fuoco. Sì, anche fiammiferi, esatto, io mi ricordo le sigarette che non bruciano. Non mi rubare le cose che devo dire, scusami, No, stavo dicendo che appunto la sequenza dei titoli di testa è un incendio. Il fuoco ha una parte importante nella relazione tra Sailor e Lula. Il padre di Lula infatti è morto bruciato vivo, e i fiammiferi diventarono uno degli elementi che da una parte uniscono la coppia e dall'altra minacciano di distruggere il loro legame. E è importantissimo, prima mentre raccontavo la trama, il sottotesto del mago di Oz, che in Cuore Selvaggio appare in diversi momenti e la rende una favola nera, insomma, e gli dà anche un aspetto abbastanza strano. Ogni scena del film possiede una quantità molteplice di piani di interpretazione, come sempre nel cinema di Lynch, soprattutto visiva. È forse il lungometraggio più sperimentale di questo regista, che ha intersecato immaginazione, immaginario collettivo, visione personale e racconto popolare. Devo togliere qualche minuto tenuto come al solito alla nostra trasmissione per fare dei saluti e dei ringraziamenti e dare degli abbracci a Valentina e a Marianna, sempre all'ascolto, grandissime. Vi saluto caldamente e chiamateci. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams. E questa era la versione di quel coatto di Nicolas Cage. Ma sono forti questi attori americani, però sanno fa tutto. Hai sentito come canta bene? Canta bene questa versione di Love Me Tender, ora ovviamente originariamente la canzone di Elvis Presley, che ha scritto insieme a Vera Maston. E questa scena, questa musica accompagna la scena proprio che dicevi prima, dove Nicolas Cage, dopo essere stato pistato a sangue, decide di ritornare dalla sua donna, come si chiama? Lula, che l'aveva aspettato, e appunto, e in piedi sul cofano della macchina la bacia, gli canta questa canzone e poi la bacia con passione, insomma. Oh, bene, l'ospite di questa settimana, che poi è la puntata che ci porta alla pausa estiva, con Cuore Selvaggio c'è Mario Sesti. Ci sei, Mario? Eccoci, mi fa piacere essere l'ospite che inaugura tutti, buone vacanze prima di tutti gli altri, diciamo. Allora, tra l'altro, Mario, mi sono letto con curiosità il resoconto dell'incontro organizzato con David Lynch. Raccontaci un po' di questa bella esperienza. Ma è stata un'esperienza straordinaria, è un aggettivo abusatissimo, però sfido chiunque a non definirla tale nel momento in cui hai la possibilità di incontrare il regista di Velluto Blu, di Twin Peaks e naturalmente di Cuore Selvaggio. Scopri innanzitutto che lo incontrammo all'Hotel Eden, mi ricordo una volta, che Lynch da vicino è l'anello mancante tra James Stewart e Stanlio. Cioè, sì. Cioè il morphing, se si potesse fare un morphing con la sua faccia, scoprireste che le due cose sono, cioè, uno lo vede e dice ma questa cosa mi ricorda qualcosa, cioè, è una composizione, esatto, un ibrido perfetto. E naturalmente fu un incontro in cui i contenuti furono sorprendenti. Insomma, per esempio, mi ricordo perfettamente, come forse hai letto appunto di quel resoconto che poi fu pubblicato da Miro Mega, che lui era contrarissimo all'idea delle nuove tecniche estetiche del suono che avvolgono lo spettatore, almeno a partire dagli anni 80 in poi. Lui, fissando la base dello schermo, dice: io voglio che il suono venga da lì e basta. Lo ricordo perfettamente, no? Come succedeva proprio al cinema. E in effetti, come il vecchio mono, insomma. Esattamente, cioè l'idea è che il film ti parli e non ci sia qualcuno dietro, so, dei rumori, delle altre cose, no? Che un po' forse da una parte costituisco un'esperienza percettiva di intensificazione, dall'altra però ti distraggono, no? Sembrano un'altra cosa, non sembrano accadere nel film in qualche modo, no? Sì. Come se fosse qualcuno che crea dei rumori in contemporanea da qualche altra parte. Poi la sala era il Teatro Studio, che conta circa 250 posti, e c'era un botto di gente fuori, tra questi c'era Matteo Garrone, che non è riuscito a entrare, io l'avevo invitato, e siccome c'era insomma, governare i flussi delle persone in questi casi è la cosa più complicata che c'è, rimase fuori. E quindi dopo, che mentre noi facevamo questo incontro, c'era un regista come Matteo, che era un appassionato dei nostri incontri, lavorava anche con Arthur Penn e tantissimi altri, no? Che stavano fuori, e c'era Verdone dentro, che facemmo un montaggio di tutte le cose più sensuali, no? C'è il film Twin Peaks, che è poco conosciuto, che andò molto bene. C'è però una scena tutta girata in discoteca, che c'è una specie di autoerotismo collettivo, le donne, che è di una sensualità pazzesca. E mi ricordo che Bertone mi disse: ma dove stava questa scena? Cioè, c'è un momento, e Studio Universal, che riprendeva tutto quanto, per poi fare del montaggio, un'edizione che è andata in onda parecchie volte, era un po' preoccupato che le scene che avessimo scelto fossero un po' troppo sexy per la televisione. Ed è stato, io lo ricordo, mi sembra un sogno. Eravamo io e Antonio Monda, che adesso, come sapete, è direttore artistico, che abbiamo iniziato questo viaggio nel cinema americano. Andammo da Veltroni, perché quando era sindaco Veltroni, lui appunto, essendo appassionato di cinema, diceva: ma perché non me li portate qui? E mi ricordo che Lynch chiese a Veltroni per quale ragione non avesse ancora fatto un parco tutto dedicato alla meditazione. Era la sua fissa, questa storia della meditazione, ne parlava in continuazione. E lui, se andate sul suo sito, insomma, ci sono continui riferimenti. Insomma, lui sostiene che la meditazione l'ha salvato, sostiene che grazie alla meditazione, per esempio, degli attacchi di rabbia, di ira, addirittura parlò di momenti di violenza nei confronti delle sue compagne, delle sue mogli, che grazie alla meditazione l'avevano salvato. Insomma, è una personalità diciamo non ricca di più, è una personalità romanzesca. Quando incontri una persona di cinema, no, spesso il rischio di rimanere un pochino delusi, perché magari i film, no, che hai visto sono molto più belli o interessanti delle persone, è abbastanza alto. Con Lynch questo pericolo fu scongiurato dopo i primi 5 minuti. Tra l'altro, citavi Twin Peaks, la cui colonna sonora, il tema principale di Badalamenti, è uno dei suoi pezzi migliori, musicalmente parlando. Anche secondo me, Badalamenti, anche lì, no? Un altro mistero linciano. Per anni si è detto che Badalamenti non aveva alcun legame con il famoso Badalamenti, che è stato uno degli ultimi boss. Non è vero, Badalamenti effettivamente aveva delle relazioni delle parentele con il famoso mafioso americano, e Lynch, come sapete, lo ha fatto crescere, è lui che lo ha rivelato al mondo come musicista, no? Questa forma di stilizzazione molto postmodern, molto pop, sì, di mettere tutto con delle tinte sonore piatte, apparentemente languide, troppo melodiche, troppo semplici, che però alla fine proprio questa troppa semplicità genera qualcosa di sinistro, no? Che sì, un po' anche tutto il cotè dello stile sonoro per l'appunto di Cuore Selvaggio, no? Che sembra alla fine un film alla Elvis Presley, però che posso dire, girato da Friedkin, ecco, da un regista piuttosto, diciamo, capace di lavorare sul noir, sulla violenza, sul mistero, sul thriller. Poi ci siamo sentiti ancora un altro paio di volte, perché c'era la possibilità che venisse, a un certo punto c'era la possibilità che lui presentasse un libro, però non siamo mai riusciti a concludere direttamente. Questo incontro però, lui era vestito con un vestito nero di gabardine con una camicia bianca dal collo, diciamo così, asiatico, un po' tibetano, come si dice, tagliato. E fu una serata per me sicuramente proprio leggendario. Uno degli tutti quelli che ci furono poi mi sembra che ebbero la stessa sensazione di unicità in qualche modo. Uno degli aspetti più belli della personalità di Lynch è il suo essere un artista poliedrico, e due cose, due elementi per esempio della conversazione che avete avuto mi hanno colpito. Il primo è stato il passaggio dalla pittura al cinema, perché proprio dipingendo lui ha avuto l'idea di cinema e quindi di passare dietro la macchina da presa, e l'altro il passaggio dal suono all'immagine, quando in genere il percorso è l'inverso per quanto riguarda la cinematografia, invece in lui ha un'importanza prioritaria e fondamentale quella del suono. Assolutamente, la regia del suono di Lynch forse è la parte, diciamo, del lavoro di Lynch che si può più chiaramente definire assolutamente cruciale, decisivo, no? Forse Lynch ha inventato i primissimi piani sonori, quando in Velluto Blu uno si avvicina a un tuffo d'erbo e senti una specie di soggettiva che alza il ronzio fino all'infinito, no? Quella capacità per l'appunto di creare dei punti di ascolto, di intensità, di creare delle fusioni, no? Tra, diciamo così, il livello narrativo di ciò che vede nell'immagine è una sorta di soggettiva sonora, no? Che può in qualsiasi momento irrompere, no? E per l'appunto, ricostruendo, come dicevi tu, il suo arrivo al cinema, si capisce bene che la regia del suono è stata almeno altrettanto importante, l'idea, diciamo così, di dare una forma al suono è stata almeno altrettanto importante quanto quella di esplorare le immagini. Poi naturalmente c'è la sua forza di pittore, perché non è che sia un pittore della domenica Lynch, appunto è nato come pittore, l'idea di fare della pittura che non fosse semplicemente un esercizio di intrattenimento, no, ma che fosse un investimento almeno altrettanto ambizioso di quanto quello che sarebbe stato per il cinema, è sempre stato vivissimo nella sua no? Poi ci sono alcuni esperimenti come il topo rasato a zero, che viene citato completamente, e lui dice, ma perché l'ha fatto? Lui ha assicurato che questo non ha causato alcuna forma di malessere o disagio al topo, bisognerebbe chiederlo al topo naturalmente, però ha detto perché era bellissimo, no? E quindi, no, è come tutti i grandi artisti, poi alla fine significa anche la capacità di dare un significato al termine bellezza che uno non può neanche immaginare prima che loro arrivino a creare quella cosa per cui diventano inconfondibili, no? Ecco, quindi vince esattamente questo, quello dopo il quale un topo rasato a zero può essere un modello di bellezza. Ecco, e anche a proposito anche a proposito dell'estetica, vedendo il suo cinema e poi leggendo il suo pensiero, proprio ritornando al resoconto che mi hai mandato, mi ha fatto venire in mente proprio l'idea della Bella e la Bestia, l'idea di bellezza e il corpo femminile ripreso in tutti i suoi elementi. È un punto che torna in tutti i suoi film, e dall'altro la bestia, gli aspetti perversi e mostruosi soprattutto legati alla figura maschile, e il tutto in un clima generale di sospensione e intesa e minacciosa che incombe su questo, poi questa estetica quasi idilliaca anni 50. Sì, come ha scritto Michel Chion, che è un famoso critico francese, poi alla fine quello che ti colpisce quasi fino all'imbarazzo nei film di Lynch è lo scandalo della vita, no? Che esista la vita. Ogni volta che lui inquadra un corpo, come hai detto tu, c'è qualcosa che sembra attirato dalla bellezza. Dall'altra hai l'impressione che lui guardi qualcosa che per il fatto stesso di esistere sia un po' mostruoso, no? Cioè questi due aspetti per l'appunto convivono in continuazione. Il suo occhio è sempre un occhio affascinato da una parte e dall'altra un po' raccapricciato da ciò che... L'impossibilità di dividere queste due cose è forse il cinema di Lynch, nella sua essenza più profonda, no? Sì, sì, sì, sì. Voglio dire, da Eraserhead in poi, no? Sì, sì, sì. Che sì. È un mondo, no, da incubo, no? Sembra una favola kafkiana, assurda, atroce, no? Sì. La testa che cancella, eccetera. Però allo stesso tempo c'è sempre l'incanto, l'imbiglio, qualcosa di... no? Tra i termosifoni c'è una soubrette che canta, no? E che ha una sua grazia malinconica e di cui non ci si può scordare. Sì, questi sì. Due elementi, o come dice lui, no? L'idea che comunque no? Ciò che lo affascina, mi ricordo quando lo intervistai una volta, quando venne addirittura a presentare Il Velluto Blu a Roma, quindi a metà degli anni 80, con De Laurentiis che lo produceva. Ciò che mi affascina è sapere che mentre sono in un bar magari c'è un angolo in buio dove c'è qualcosa che formicola, ecco. Diciamo questa cosa qui, no? Sì, sì, sì, sì. Sia nel senso di rilassatezza, stare in un posto e avere le percezioni che sono al massimo della loro capacità di essere sensibili, sia anche il fatto che provare un'attenzione, come dicevi tu, che poi può essere un terrore, può essere un'ansia, è una forma di eccitazione che fa parte della conoscenza, eh? Sì, e come sì, sai sì. Fa molto parte del cinema, dell'essere sì. Cinema. E l'ultimo elemento fondamentale, a mio avviso, sai che per molti è un cinema di difficile comprensione quello di Lynch, però lui è contro il cinema spiegato troppo, per cui lui lo affida molto all'intuitività soggettiva, e questo mi pare fondamentale nella sua opera. Sì, direi di più, credo che Lynch non abbia mai fatto film in cui non ci fosse qualcosa che anche per lui non era un po' misterioso, no? Credo che questo sia proprio un suo programma di lavoro, perché una sua idea estetica. Anche nella provincia, anche nel quotidiano più ordinario e banale, il suo occhio sa trovare qualcosa di indescrivibile, di inspiegabile, no? Che è esattamente ciò che caratterizza un po' il nostro essere al mondo, no? Sì. In cui facciamo finta tutti di sapere un po' come vanno le cose, però non sappiamo perché sono nati, non sappiamo qual è il nostro destino, non sappiamo bene neanche qual è il ruolo di questo pianetino che gira forse in un universo completamente vuoto, sì, di altre persone di cui siamo gli unici esseri viventi. No, ci muoviamo così come se tutto questo fosse normale, no? Cioè questa poi alla fine della fiera, no? E questo mistero allo stesso tempo eccitante e schiacciante, che poi le religioni tradizionali tentano in maniera anche molto tenera di riuscire a risolvere, e questa cosa qui che ritorna dal pozzo buio di tutti i suoi film e ci dice qualcosa che conosciamo bene, insomma, che c'è un mistero che nessuno di noi riuscirà mai a spiegare completamente. Mario, in chiusura, noi a ogni ospite chiediamo un film a cui ti piacerebbe dedicare una puntata, legata alla colonna sonora, ovviamente. Ah, legata alla colonna sonora. Beh, insomma, che ti devo dire? Io domani c'ho come ospite Nicholas Winding Refn, Sì. Anzi, me ne approfitto per fare un po' di promozione domani al Maxi, ingresso gratuito, ore 21. Insomma, Drive ha una colonna sonora che mi piace tantissimo, perché è un po'. C'ha qualcosa di linciano, nel senso che è una colonna stile anni 80, l'ho messa molto tra virgolette. Bene. Ecco, quello per esempio è un film in cui l'uso della musica non è semplicemente né decorativo né prezioso, né si mette in mostra più del film stesso, ma interagisce e complica i sentimenti e le immagini del film, collaborando al suo senso e anche al suo fascino in maniera molto intelligente. Bene, allora Mario, io ti ringrazio, con te ci salutiamo per questo saluto estivo. Si torna poi a settembre con Tracce di Cinema, a risentirci presto. A presto allora, grazie. Un abbraccio, ciao. Ciao. A presto. Quindi siamo giunti alla fine, per questa, diciamo così, stagione. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno prestato inconsapevolmente le loro parole a questa voce, e tutti gli ascoltatori e le persone che insomma ci hanno sostenuto, questa radio che ci ha dato quello spazio insomma per contarvi un po' di cinema e farvi ascoltare un po' di musica. Speriamo che vi sia piaciuta, speriamo di risentirci a settembre. Vi ricordo che non dovete omettere nelle vostre cose, che nella vostra lista di cose da fare, di sottoscrivere al conto corrente postale 61804001, intestata Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Vosci 56 00185 Roma, per sostenere questa radio libera, senza padroni, senza partiti politici, senza pubblicità. Allora, ci sentiamo dopo l'estate per quanto riguarda Tracce di Cinema, però la pagina Facebook sarà quotidianamente aggiornata con le canzoni che abbiamo amato di questo ciclo, primo ciclo di trasmissioni, e anche di spezzoni, per cui sarà viva per tutta l'estate, per chi avesse nostalgia può godersela per tutta l'estate. E poi voglio ringraziare voi, Federico e David, che siete stati fondamentali e grandissimi. Con che ci salutiamo, David? È sempre Nicolas Cage, questa volta Love Me. Ciao a tutti. To read me like a fool, to read me mean and cruel, but love me, break my faithful heart, tear it all apart, but love me. Won't you love me? I would beg and steal.